La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле еле. La Maria, mia madre, era molto superba. Voleva stare sempre un gradino più su degli altri. Le piaceva vantarsi. Nel 1943, a 18 anni, si trovava con suo marito in Albania a colonizzare in una villetta bifamiliare che dividevano con la famiglia Dessì, una distintissima famiglia di sardi. Bella e capricciosa, laggiù la borghesuccia di Umbertide in provincia di Perugia si sentiva una regina. Ma scoprì con dispetto che qualcuno era più regina di lei. La sua coinquilina, la signora Dessì, era nobile e riceveva lettere con la dicitura ND, nobildonna. Questa, la Maria, non la poteva proprio mandare giù. Un giorno si accorse che Lelletto, il figlio tredicenne della signora Dessì, beveva di nascosto l'acqua San Gemini che mio padre faceva venire a caro prezzo dall'Italia. La Maria tacque, esultante. Finalmente si presentava l'occasione per abbassare la cresta a colei che offuscava il suo primato. La Maria riempì la bottiglia di San Gemini con una mistura micidiale, smacchiatore, ammoniaca, acido muriatico, e poi attese. Un grido bestiale squarciò il silenzio del pomeriggio. Tutti accorsero. Lelletto si torceva per terra, in fin di vita. Accanto a lui la bottiglia rotta, lasciata cadere nello spasimo. La signora Dessì gridò: «Lei è pazza! Cosa ha messo nell'acqua minerale?» E la Maria, con l'innocenza più sfacciata, poté finalmente pronunziare la frase studiata da giorni, la frase che era lo scopo stesso di quell'omicidio. «Ma signora Dessì, chi avrebbe mai immaginato che il figlio di una nobildonna come lei si attaccasse alla mia San Gemini?» Lelletto non morì, per un pelo. Mia madre raccontava ancora questa storia, senza un filo di rimorso, e non si teneva da ridere. Concludeva sempre dicendo: la superbia va punita. Mia madre vecchia poi era diventata una gran civetta. Le piaceva molto la divisa. Flirtava di preferenza coi carabinieri, ma molto anche coi preti. Aveva una casetta di tre piani e si faceva corteggiare dal parroco, Don Ignazio. La zia Alba, che era anticlericale, mi disse: «È un grande affare immobiliare del Vaticano. Puntano i vecchi, specie quelli cattivi che sanno di meritare l'inferno, e in cambio dei loro beni promettono il paradiso». Ah, Lutero, Lutero. Poi c'è una storia che è troppo lunga da raccontare, ma dirò soltanto che, per un equivoco, la mamma credesse che papà fosse morto. Lo credettero annegato e quindi si fece questo funerale con la bara vuota, e quel funerale lieve, senza corpo, rese mio padre Alvaro ancora più degno di rimpianto. Non era stato solo un grande giocatore di poker e un grande seduttore, ma anche un grandissimo calciatore quando giocava come centravanti della Tiberis. Era rimasto nella storia del paese il suo gol nella famosa partita col Gubbio da metà campo all'ultimo secondo, riscattando una guerra di vicinato fra le due città che durava da 600 anni. Mia madre per la prima volta ebbe dei rimorsi. Lui era scappato di casa dopo una lite. Pensò che non lo avrebbe visto mai più il suo bel Alvaro. E in quegli occhi che erano nati asciutti, per la prima volta spuntarono le lacrime. La notizia fece il giro del quartiere e presto si riseppe in tutti i luoghi che l'avevano vista bambina e poi ragazza, su fino a Pietralunga, Ponte Felcino, Monte Castrilli, Ponte Pattoli, Pregio, il Corvatto. La Maria ha pianto. La Maria ha pianto. La notizia arrivò a Don Ignazio. Il suo olfatto ecclesiale aveva già fiutato la paura dell'inferno. La casa è sua. Ce l'ha già in tasca. Da troppo aspettava questo momento. E come i mostri preistorici, dissimulati nel terriccio, d'un tratto alzano con fracasso la squamosa gobba con un barrito che fa tremare il cinema, Don Ignazio, ergendosi in tutta la sua avidità, piombò su di lei in cotta viola per spaventarla meglio. Padre, mi confessi, non solo mio marito è morto per colpa mia, ho un'altra colpa grave sulla coscienza, anche se fu solo un peccato di discrezione. Avevo 18 anni, stavo in Albania. Eravamo andati a portare la civiltà a quei pezzenti e non ce ne furono mai grati. Che estati! Andavamo sullo Scumbini, il fiume, a cercare le tartarughe. Le portavamo via in bicicletta e quelli della paura non sa quanto pipì facevano per la strada, certe risate. E avevamo pure il cuoco, un armeno circonciso di nome Nasippe, un pezzo d'uomo che ce lo invidiavano tutte, ma lui vedeva solo me. Mi adorava. Sragionava d'amore per me. La notte ululava come un lupo, ma questa è un'altra storia. Io avevo più corteggiatori che peli, ma ero stimata perché stavo al mio posto. Era l'unica ragazza seria. Gli albanesi dicevano, uomini italiani tutti dottori, donne italiane tutte puttane, ma io no. Io venivo portata come esempio. Io scherzavo con tutti, ma non la davo a nessuno. Ero sposata io. Над гранитной Невой гром стоит полковой, да прощание недорого стоит. Un giorno, nel 1943, viene a trovarmi uno dei miei corteggiatori più fedeli, un giovane ufficiale, e con un'aria tragica mi fa: devo dirle una cosa, questione di vita o di morte. La dico solo a lei, perché lei è l'unica seria. L'unica che non disonori il nostro paese con un comportamento leggero, mentre le altre sono tutte delle granzoccole. Dovete scappare. Stanno venendo i nazisti. I nazisti, finalmente, che notizia! Con quelle divise da ricchi, mica come quei cafoni di italiani con le facce da morti di fame, come mio marito. E se me ne acchiappavo uno, magari mollavo il marito, finivo nella cerchia del Führer, e hai visto mai che pure lui perdeva la testa per me, come Nasippe, mi facevo una posizione e glielo facevo vedere io a un Bertile, la facevo radere al suolo se mi girava. E rispondo, i nazisti, e beh, non siamo alleati? Sì e no. Cerchi di capire oltre le mie parole. Prende il primo aereo e torna in Italia. Non perda tempo a fare i bagagli, se non vuole rischiare la morte, o peggio. Noi dividevamo la villa coi Dessì, una famiglia di terroni, pieni di arie perché lei era nobile. Nobiltà sarda, si figuri. Io feci le valigie di nascosto e mi guardai bene dall'avvertirli. Perché? Chiese il parroco. Beh, perché era un'informazione riservata, e io me l'ero meritata, con la mia condotta integerrima. Che c'entravano loro? Io presi l'ultimo aereo per l'Italia. Quando arrivarono i tedeschi, la signora Dessì provò ad alzare la cresta anche con loro, a fare la nobildonna, finché un soldato perse la pazienza, la colpì col calcio del fucile in bocca e le fece saltare tutti i denti. I Dessì alla fine riuscirono a fuggire. Ci misero 2 anni, lei, suo figlio l'eletto, gli altri 2 marmocchi e il marito, per tornare a piedi attraverso i Balcani. Si presero la scabbia, le pulci, la pellagra. Li vidi all'arrivo, coperti di pustole e stracci, pieni di pidocchi, e dissi alla signora: ora non si dà più tante arie, eh? Scommetto che si è scordata di essere una nobildonna, ND. Il petto di lei era scosso dai singulti. Con orrore Don Ignazio si accorse che la morente rideva. Al ricordo del suo trionfo sulla rivale, dopo 70 anni ancora le veniva da ridere. Altro che confessione! La vecchia sacrilega si era vantata, aveva celebrato le sue gesta. Dimenticando lo stile insinuante della romana chiesa, il prete esclamò: signora, ma lei è un mostro! Ma avevo 18 anni. Ed era già così cattiva? Lei è un pazzo dell'inferno e solo una cosa può salvarla. Mi dia la casa e forse in paradiso ci mette anche piede. In barba alla permissività, ma quante hanno l'amante ancora? Quante ancora stanno vicino a un uomo sposato, anni e anni, colui che tentenna, che nicchia, che tradisce sia l'amante che la moglie, promettendole che la lascerà, che lascerà la moglie. E poi, che naturalmente non sa niente invece, e poi ci sono le feste comandate, c'è il Natale dell'amante. C'era una volta la piccola fiammiferaia. Era Natale e lei stava fuori. Nel gelo, esclusa dalla festa, con la sua scatoletta di fiammiferi che nessuno voleva comprare. Ne accese 3. Coi primi 2 si immaginò al caldo. Col 3° le apparve la nonna, che la portò in paradiso, cioè morì di freddo. Ma chi sarà a Natale la piccola fiammiferaia? Io, l'amante. L'amante di te, uomo sposato. Sarò io, come la bambina dei fiammiferi, chiusa fuori dalla casa in festa. Maledetto Natale. Non potrò nemmeno telefonarti. Mi risponderesti con quella voce da marito, facendo finta che sono qualcun altro. Sola nel freddo della via, guardando le tue finestre, accenderò il primo fiammifero e mi apparirà la vostra sala illuminata, i tuoi modi di colpevole e la paura che tua moglie lo scopra. Accendo il secondo fiammifero e vedo che qualcuno, scherzando, fa il mio nome. E tu non dici niente. Tu lasci che si parli di me come di una scema un po' troia. Sul marciapiede accendo il mio terzo fiammifero e vedo il nostro primo incontro. E vedo anche quella riga che mi facesti leggere dal libro di Mikhail Bulgakov, Il maestro e Margherita. L'amore ci colpì alle spalle, come l'assassino che sbuca fuori da un vicolo. Ecco, così fu con noi. E vedo te e tua moglie come statue desolate. E vedo che piangi. Ti amo. Mio disgustoso. Mio uomo sposato. I fiammiferi sono finiti. Ma non finirà mai la mia pazienza di nutrirmi di avanzi. Mio indigeribile, mio indeciso, mio indispensabile uomo sposato. E in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Ho avuto molte delusioni in amore. Da qualche anno le mie relazioni sono tutte in chat. Per un paio di volte ho ceduto alla tentazione di incontrare i miei partner. Erano come si erano descritti, ma sono rimasta sempre delusa. Preferisco da lontano, tutti i vantaggi e nessun rischio. Carla. Beh, certo, è una gran comodità la chat, questo carnevale dell'identità dove puoi cambiare sesso ogni giorno come le nuvole e poi senza muoversi da casa, puoi essere brutta quanto ti pare, senza bisogno di depilarsi, fingendoti, se vuoi, persino Afrodite in persona. Sono finiti quei tempi scomodissimi della fornicazione reale, quando bisognava studiarsi ogni volta un abbigliamento, essere impeccabili di sopra e sotto e lavarsi tutto. Adesso c'è questa comodità che siamo ombre, cioè impuri spiriti. Sedute al computer, col marito nell'altra stanza magari, che a sua volta chatta con questo essere immateriale che si fa passare per messaline, magari è un pensionato come lui, forse più triste. E poi c'è questo gusto del sesso senza volto, senza l'ingombro della presenza. E poi soprattutto sei nel cuore del tuo tempo, cioè nella tendenza erotica più diffusa di oggi. Onanismo superstar. Io non ho niente contro, però vorrei fare un discorso storico. In passato legioni di madri furiose, di educatori, di preti hanno inseguito col mattarello e l'aspersorio l'adolescente che si rendeva colpevole di obbedire al richiamo più elementare della natura. E attraverso questo tabù si piegava alla volontà del ragazzo che domani sarebbe stato un uomo, perché quale dignità può sperare chi accetta di essere diviso dalle proprie mani? La rinuncia al libero arbitrio comincia da quando, colto sul fatto, riconosci il castigo. La prima carezza che ci spetta veniva atrocemente combattuta per sventare la confidenza con l'unica persona su cui dovremmo poter contare sempre, noi stessi. Però questo allora era una forma di libertà contro l'ossessione degli adulti. C'è uno scritto del dottor Demetrius Zambaco, un maniaco sessuale che dedicò la vita alla repressione della sessualità, che si ambienta all'inizio del Novecento e si intitola «Onanismo e turbe nervose di due fanciulle». Ora, le turbe nervose sono tutte degli adulti. Le due ragazzine, di cui lui racconta, starebbero benissimo. Hanno solo questa vivace propensione autoerotica e, se la lasciassero in pace, vivrebbero serene. Invece, dietro di loro si scatena la caccia dei genitori, del dottore, che è autore di questo resoconto comico e agghiacciante, dove elenca le invenzioni criminose per impedire che le due ragazzine trovino sollievo. Ma cose da veramente da torture, bagni gelati, legacci, busse, sorveglianze a turni, minaccia di cautelizzazione. Questo quando era ancora questa innocente pratica artigianale, una delle ultime cose fatte a mano. Ma oggi non si fa altro. Io mi chiedo qualche volta se tornassero questi piccoli martiri e vedessero che quelli legati ai letti, picchiati, puniti in ogni maniera, e vedessero che pochi decenni dopo l'onanismo è diventato un'industria con un fatturato impressionante. Se vedessero quali patrimoni di soldi, di ingegno, di tecnologia sono stati profusi, tutto pur di eliminare il partner. Se vedessero che passi da gigante abbiamo fatto per liberarci del prossimo. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, l'attrice Catherine Spack è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Sono Catherine, sto arrivando. Ah, ciao Catherine, beh, stai arrivando con la voce. Come stai? Adesso così, in cima a un faro. E dimmi... lo so, qui il mare è un po' mosso, però insomma, tengo la barra dritta verso di te. La ragazza che ha veramente... che ha rovinato generazioni di italiani nel... Ah, rovinati? Ho contribuito alla nascita di parecchi di questi giovani oggi. No, rovinato nel senso che condannati a immaginarti in questo senso. Non credo. Il tempo passa e anche la memoria se ne va. Beh, ma le opere restano però. Sì. Dove stai? Che fai? Raccontaci tutto su Catherine Spack. Dunque, sto finendo il mio sesto libro, romanzo. È terribile come i precedenti? Perché io devo dire, ho letto il tuo primo libro, questa signora così compassata in fondo, no? Così elegante. Ma apro il libro e trovo il demonio. Il tuo primo libro è veramente indemoniato. Ma veramente il demonio negli altri più che in me, credo, no? Perché racconto del demonio, però non credo di esserlo mai stato. Il mondo è brutto, secondo me, molto brutto. E più il mondo è brutto, più noi dobbiamo essere bellissimi. Esatto, cerchiamo di fare della nostra vita un piccolo capolavoro, questo è il mio motto ultimamente. E questo comporta molta solitudine, molti rifiuti, molti no. Quindi più vedo la volgarità invadere e degradare tutto quello che amo e tutto quello che mi piace, più mi sento di essere elegante e di fare il contrario di tutto ciò che vedo di degradante, di puerile, di inutile e nocivo. E quindi cosa stai facendo, oltre al libro, per esempio? Com'è la tua vita? Io vivo a Roma in una piccola casa, però è un momento di passaggio nel quale io veramente voglio di niente, nel senso di liberarmi di tanti pesi, di tanti obblighi e di tante responsabilità per non avere attorno che cose minime, ecco, il periodo minimalista. E senti, dici una cosa che ci interessa a tutte, dieta e ginnastica. Beh, yoga, meditazione, ovviamente, quindi rigore per il proprio corpo, soprattutto per la propria mente, di conseguenza anche, insomma, cercare di non abbuffarsi di schifezze. Senti, e l'amore che parte ha in tutto questo? Che ha avuto l'amore ha? Non c'è. Assolutamente, tranne che per figlio, nipotina, ovviamente i miei cani. Non ho amori da molti anni e quindi è una bella cosa. Non essere schiavi dei propri sensi o delle proprie pulsioni emotive, passionali, secondo me è una cosa meravigliosa. Cioè una vita pacata, una vita sobria, una vita riflessiva. Adesso sei arrivato a un punto in cui ti sembra un grande risparmio di energia, in fin dei conti. Sì, no, non mi sembra, ecco. Sì. E quindi, però nel tempo, che voto daresti all'amore, alla sua presenza nella tua vita? Ma è importante, importantissimo per tutti, bisogna ogni cosa alla sua stagione, vanno fatte certe esperienze anche dolorose per comprendere, per diventare quello che si è in realtà e che non si capisce ancora di essere, non si vede ancora, per cui è un tragitto assolutamente importante, una lezione di vita che ci aiuta appunto a conoscerci, a comprendere il senso di molte cose. C'è una figura tra queste persone che tu hai amato, che rimane per te alta, che rimane per te un punto di riferimento comunque? Sicuramente il mio matrimonio con Johnny Dorelli è stato un periodo bello, è stato un periodo molto importante per tutti e due, per le nostre vite, per le nostre carriere, è stato veramente un momento splendente. E lui è rimasto sicuramente nel mio cuore, li voglio molto bene e quindi abbiamo anche un rapporto, come dire, di amicizia vera. E com'è essere, io per me la risposta ce l'ho, ma lo vorrei sentire da te, com'è essere amati da un uomo veramente spiritoso? E secondo me devo dirti che l'umorismo, se è vero, presuppone anche la tenerezza. Perché l'umorismo... Ma non c'è dubbio. dubbio, non c'è dubbio. Questo nella parte iniziale dei rapporti, come sappiamo all'inizio tutto è splendido. Dopo può diventare un po' pesante perché in genere l'ironia a volte ti tocca nei punti deboli o ti mette a disagio perché ti fa sentire un po' inadeguata. Comunque l'ironia è secondo me importante, è un maestro, l'ironia è un maestro per insegnarci le cose belle e anche quelle brutte. E comunque, ecco, io non sono mai stata, cioè io da giovane ero bella, ma ero bella perché ero io, perché avevo una personalità, non sono mai stata una bellezza come te. Per ma cui, non è vero, diciamo, mi dissocio totalmente. No, grazie, ma Catrine, ecco, conosco i miei limiti. Ma voglio dire, quindi nel passaggio ho visto che le donne veramente bellissime sono quelle che vengono castigate dalla vecchiaia in quanto sono state delle dee. E quindi ti dico, per me il passaggio è stato relativamente facile, me la ridevo. Ecco, per una donna invece che è stata, senza sottovalutare la tua bellezza di oggi, appunto, però ecco, come guarda, sono stati i passaggi per te? Guarda, per la prima volta in vita mia, a 65 anni, avendo una casa piccola ma su due piani, mi chiedo se per quanti anni ancora riuscirò a fare le scale. E quindi io... Il mio problema direi che è quello. Per il è futuro. La mobilità, eh? Ecco, sì. Per il resto non mi accorgo di avere la mia età, non me ne sono mai accorta, non sono mai stata lì a guardare le vecchie foto che ho da qualche parte, non so dove, in un cassetto. Ah, molto non sei come quelli che si idolatrano, che dicono... Per carità, non ho un film mio che mi rivedo nelle sere di pioggia e chissà quante ne dovrei vedere in questo periodo, e quindi vivo veramente nel presente. E quando vedo qualche film, qualche volta capita, insomma abbastanza di rado, mi stupisco perché vedo un'altra e mi diverte. Certo, perché tu sei nella metamorfosi, perché è la parola d'ordine della vita, senza metamorfosi. Ma sai Barbara, io credo che, e tu mi puoi capire più di chiunque, che una donna che ha dato importanza, molta importanza alla sua mente, alle sue passioni, di interessi intendo dire, no? È sicuramente una donna avvantaggiata per la vecchiaia perché ha un mondo suo, ha costruito qualche cosa che ha delle radici, che ha un senso, e questo è di grande aiuto quando si perde, diciamo, il bel capottino. Qui Capitaneria di Porto, è in linea Tiana Jerkovic per Barbara Alberti. Tiana, ti sento? Sì, sono qua. Raccontaci la tua storia. Tu lo sai che comunque secondo una regola non scritta, ogni quartiere di una città grande e ogni anche cittadina di provincia, no? Hanno un ragazzo sovrappeso chiamato regolarmente Ciccio e una ragazza che gioiosamente si concede a tutti la leggera. Cioè questa è una regola proprio mondiale, credo. E in quella cittadina che era appena poco di un paese della provincia serba, e poi era poco più di un paese grazie a un grattacielo di 10 piani che stava al centro vicino alla posta, tutti i giovanotti erano andati a letto con Vesna. Comunque non ti credere che lei fosse una giovane problematica o una sfigata di qualche famiglia disastrata, no, assolutamente no. Era la figlia di un impiegato del comune, un geometra, agente normale che ha avuto questa figlia in tarda età. Io sinceramente non ho mai capito questo meccanismo che spinge le donne, questo tipo di donne giovani a cambiare così tanti uomini. Forse un libido pronunciato da non poterlo dominare, oppure una mancata soddisfazione dei propri desideri, o semplicemente la ricerca di acquisire un potere incredibile quanto temporaneo nel mondo maschile. Tanto sta che tutti in quella cittadina, di quella generazione, diciamo, potevano avere Vesna, tutti, in macchina, dietro casa, in una festa. C'è comunque da dire che lei era molto discreta, per niente volgare, ma comunque la cittadina mormorava, la cittadina sapeva, e lei gioiosamente se ne fregava. Solo a Vladimir non ha mai concesso neanche un bacio. Non che il ragazzo fosse brutto o gli mancasse qualcosa. A dire la verità erano entrambi nella media, né brutti né belli. Ah, lui non era quello grasso? No, lui era uno qualsiasi. Sì, uno qualsiasi come lo era lei, no? Solo che lei aveva deciso di non far avvicinare lui mai a sé. Sapeva che da anni, da quando erano bambini, la adorava ciecamente, la osservava da lontano, soffriva per queste sue imprese da Casanova al femminile e sì, l'amava. Lei semplicemente voleva che Vladimir continuasse ad amarla e aveva bisogno che qualcuno sentisse qualcosa per lei, che pensasse che era molto meglio rispetto a quanto si dicesse in giro sul suo conto. Lo scelse semplicemente come il suo cavaliere triste e solitario. E poi, quando lui se ne andò a studiare a Belgrado, lei piano piano cessò con la sua forsennata attività sessuale, ebbe qualche relazione più stabile e duratura, come si dice, ma nessuno sarebbe mai venuto in mente di sposarla. Troppo onore per una leggera. Nel momento in cui si incontrano di nuovo Vesna e Vladimir, perché gli uomini comunque a distanza del tempo tornano quasi sempre sul luogo del malanno o del mancato malanno per rifarsi, lui è un uomo di successo, non so se negli affari o nella politica, ma comunque in un settore che porta tanti soldi e tanto potere. Lei è impiegata delle poste ed è madre di due figli maschi avuti da due uomini diversi. Allora Vladimir la invita ad uscire fuori a cena e guarda un po', lei acconsente. Poi dopo i soliti discorsi sulla comitiva, amici comuni, ecco che arriva la domanda, quella che Vladimir, uomo di successo, ormai posizionato in alto nella capitale, ha tenuto in gola per anni. Come mai non hai mai voluto stare con me? E gli risponde, perché eri l'unico che mi amava e volevo che rimanesse sempre così. E lui, ti amavo, dici? Ma sai che non mi ricordo. Credo, così come ero acerbo in quell'epoca, che tu eri il mio sogno erotico proibito. Credevo che con te, che avevi un'enorme esperienza, sarebbe stato uno spasso, un divertimento più che per ogni altra. Sì, tu eri il mio sogno erotico giovanile. Dici, amore? No, non credo. Il resto della serata Vesna parlò poco e quando Vladimir la accompagnò a casa con il suo fuoristrada fiammante si avvicinò per salutarla dandole un bacio, lei si scostò, gli sorrise e scendo dalla macchina gli disse bacio, no neanche un bacio. Era tardi e lei non vedeva l'ora a tornare a casa dove dormivano gli unici due uomini che l'avevano mai voluta bene, i suoi due figli. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Gentile Barbara, sposata con dei figli, classica famiglia invidiata da tutti, cattolica convinta. No, non doveva accadere che una passione così forte potesse sconvolgere in così sofferente modo la mia vita. Mi sono innamorata, Barbara, persa, senza ragione, e soffro come un cane. Non mi doveva accadere a questa età. Furtivamente incontro quest'uomo e facciamo follie da ragazzini. Mi nutre, mi sazia, mi soddisfa, ma nello stesso tempo sono straziata. Non riesco a comprendere né a dirigere. È questa febbre malattia che dirige me. Che casino, mia guardiana, che vulcano si è svegliato riscoprendo la mia vera natura, che è una meraviglia. Voglia il destino, se ne esiste uno, non farmi piangere troppo, ancora. Gioia. Tu ti chiami Gioia? Ma che vuoi piangere? Piano. Per piangere ci sarà tempo. In questo momento la bomba sta scoppiando. Dopo vedremo i danni. Per adesso c'è la gioia molecolare della espansione smodata, dell'esplosione che fa cadere i muri, che sbriciola tutto. Magari, certo, un giorno ci sarà da raccogliere i cocci, ma adesso ancora no. E poi sai, Gioia, anche questi tuoi rimorsi sono una forma di piacere straziante, perché alla fine comunque è sempre alla tua storia d'amore che pensi. Poi sai, sti amanti che piangono, questi amanti distrutti dal rimorso, sono un gran pretesto comico. Io mi ricordo un film degli anni 60, molto buffo, che si chiamava Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo, dove c'è una coppia di amanti, tutti e due sposati con altri, che stanno sempre a frignare perché si sentono in colpa, lo sono. Piangono mentre si incontrano, piangono mentre corrono in macchina, mentre prendono una stanza in un motel, piangono mentre si baciano, piangono mentre copulano, piangono sempre. E il pubblico giustamente si ammazza dalle risate. C'è tempo, tanto sai, è quello che dico sempre, basta che stiate zitti. Se volete veramente far durare questo amore esplosivo e nascosto, non vi vantate con nessuno, perché le cose dette sono in grandissimo pericolo. Ci si vede con gli occhi degli altri e che sono sempre ostili, sempre invidiosi, sono come lo sguardo degli dei greci, che vuole soltanto la fine della felicità degli uomini. Gustatevi il segreto. Ora tu l'hai detto al faro, no? Però sai, dirlo al faro, cioè dirlo alla radio, è come non dirlo a nessuno, perché sappiamo la tua storia, ma nessuno sa chi sei. L'hai gridato perché dovevi dirlo a qualcuno, come ti ricordi il barbiere di Remida, quando è smanioso di dire a tutti che cosa è successo al re, e quindi sa che non potrà dirlo, allora fa una buca sottoterra e ci urla dentro: Mida alle orecchie d'asino. Ecco, le tue orecchie, due orecchie bellissime, sterminate, pelose, vellutate, che nessun altro vedrà finché la difformità del miracolo dura. Мне нравится, что вы больны не мной. Oh, adesso c'è il romanzo a puntate. E non è un romanzo, è una storia d'amore, la storia d'amore di Davidoff, tratta dal romanzo Sonata a Tolstoi, scritto da me e pubblicato da Baldini, Castoldi e Dalai. Riassunto dell'ultima puntata. Siamo in Russia agli inizi del Novecento. Natalia, la più bella donna di Tula, tradisce suo marito Davidoff, il capo della polizia segreta, con un giovane di nome Liebeyedev. Davidoff decide di ucciderla, ma non fa in tempo. Natalia ha un incidente di carrozza e rimane sfregiata. La situazione si rovescia. Adesso è lei ad essere gelosa del marito. E lui, per punirla, finge di avere delle amanti, mentre è sempre più innamorato di lei. Finché un giorno il marito si stanca di quel gioco crudele. Lo commuove la pazienza con cui Natalia sopporta le sue torture. Ha voglia di dolcezza, di finirla coi duelli, e decide di dirle la verità, ovvero di confessarle che le è sempre stato fedele. Natalia è a casa che aspetta suo marito. Ha scoperto di essere incinta, ma ha anche scoperto una cosa che le sembra terribile, ovvero crede, per gli indizi che maliziosamente il marito semina, che lui sia l'amante della sua rivale di gioventù. E a casa lo aspetta. Natalia sente arrivare un cavallo. Certa che fosse il marito, corse alla porta. Aprì e si trovò davanti il suo antico amante, Liebeyedev, sciupato, male in arnese, lo sguardo da pazzo. Il primo istinto di Natalia fu di scacciarlo. Invece lo fece entrare. Il caso le stava portando la sua rivincita. Si mostrò alla luce, seguendo lo sguardo di lui sul suo volto, e vide uno sguardo innamorato. Liebeyedev le si inginocchiò davanti. «Sono il vostro schiavo. Calpestatemi», riprendendo il gioco che facevano allora. Si sdraiò a bocconi sul tappeto e Natalia gli camminò sopra coi tacchetti, pensando al ricciolo della sua rivale. Lo calpestò piano, senza fretta, sognando di calpestare il marito, con la gioia di tradirlo dopo tanti tradimenti da parte di lui. Sperava che arrivasse e la sorprendesse, e così accadde. Davidoff entrò in casa con le sue violette in mano. Più ancora della scena lo meravigliò il volto di lei. Non da donna colta in fallo. Splendeva il suo volto. Il povero Liebeyedev passò dall'estasi al terrore. Balzò in piedi, corse fuori e saltò a cavallo. Davidoff lo inseguì. Lo raggiunse nel parco. Lo fece ruzzolare giù dal cavallo e gli tagliò la gola. Il delitto per due volte mancato gli era rimasto nella mano. Finalmente era riuscito a uccidere. Nessuno se ne sarebbe accorto. Per tutti Liebeyedev era già morto. Что никогда тяжелый шар. Tornò a casa per farla finita anche con la moglie. Lo aveva offeso nel modo più insopportabile, rivelando a un altro la sua bellezza segreta, quella che aspettava lui solo. Natalia lo aspettava. Guardò senza timore le sue mani insanguinate e gli mostrò il ricciolo rosso trovato nella vestaglia. Davidoff si gettò su di lei e lei pensò che volesse ucciderla. Invece l'abbracciò stretta. Scivolarono sul tappeto e si amarono senza parole, finché il fuoco nel camino si spense. E fra loro vi fu qualcosa che non c'era mai stato: la sincerità. Semplicemente, teneramente, perfino ridendo un poco di sé, il marito le confessò dei falsi tradimenti. Le confessò che le era stato sempre fedele. Quel ricciolo gliel'aveva sì mandato Maria Alexandrovna, che lo corteggiava da tempo, e lui lo aveva accettato solo perché lei potesse scoprirlo. Natalia a sua volta gli confessò che si era fatto sorprendere apposta con quello sventurato. Gli disse anche che aspettava un figlio. Si addormentarono abbracciati. Ma risveglio Davidoff fu di nuovo assalito dai sospetti. Forse sapeva amarla solo così, nel sospetto e nella guerra. La interrogò come faceva coi delinquenti, ora insinuante, ora brutale, per sapere chi era il padre del bambino. Natalia non si degnò di rispondergli. Da quel momento Davidoff la tenne reclusa, con guardie attorno alla casa, deciso a non liberarla finché non gli avesse confessato la verità. Questa è la fine della quinta puntata, la sesta, la prossima, sarà l'ultima. Lo dico soprattutto per quelli che non amano questa storia. За то, що я, увы, больна не вами. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Mio marito vuole sempre fare l'amore con me e con un'altra donna, ma solo per il suo piacere. Lui si considera il centro erotico della faccenda, un idolo ai piedi del quale vanno ammucchiate le suggestioni che io raccolgo. Come un pappone coscienzioso, lui mi indirizza e mi spoglia. Ma io mi sono innamorata della ragazza e lei di me. Quest'orgia di sesso incominciava a pesarmi. Lei è per me l'occasione di tornare all'amore. Una sola cosa mi manca ancora, che lui lo sappia, per vederlo finalmente cadere dal trono. Si credeva un mago del sesso ed è un cornuto qualunque. Credo solo nell'infedeltà assoluta. Chiunque può diventare il mio amante, chiunque la tua. Per questo ti amerò, sull'orlo del precipizio, la posizione più comoda. Mi diceva, ti voglio bene, e giù schiaffi. Mi diceva, ti rispetto, e mi sputava in faccia. Ma sulla fedeltà l'ha messa giù dura. Se mi tradisci, ti ammazzo. La fedeltà fra noi deve essere totale. Non esiste l'assoluto meno un pezzo. E invece mi ha attaccato le piattole. Animale a me finora sconosciuto, che credevo debellato dall'igiene moderna e che si prende solo per contatto carnale. Tante chiacchiere sull'assoluto, non credevo che saremmo finiti a spidocchiarci. Quando mi viene voglia di chiamarlo, me la faccio passare rivedendolo col rasoio in mano che si depila e fa la commedia dell'innocente. Chissà come farà adesso, che non ha più me per sfogarsi a suon di cazzotti la sera quando torna e ne ha mandate giù tante sul lavoro. Gli mancherò? Credo proprio di sì. Credo che gli mancherai, perché l'aguzzino fra i drogati è il più dipendente. Quando la vittima gli scappa, conosce i momenti da attore struccato, livido specchio, camerino, dopo il meritato fiasco. Come si intenerisce allora verso l'oggetto abituale delle torture. Come vorrebbe rifugiarsi tra le sue braccia, di colpo affettuoso, piangente, buono, rassicurato dalla pelle calda, nella quale di colpo affondare le unghie fino al sangue. Messaggio nella bottiglia. Chi ti scrive è Emanuele, il rotondo idraulico del quartiere. Ho difficoltà con le donne perché peso 100 kg. Sono innamorato. Lei è bella, elegante. Mi dica la verità, non cerchi di consolarmi. Può una donna amare un uomo grasso? Caro Emanuele, una donna può amare chiunque perché ha un'immaginazione sterminata. Io sono stata grassa prima che qualcuno mi amasse, perché qualcuno mi amò. E mi ricordo, negli orrendi pomeriggi, quando quello che mi piaceva usciva con un'altra, mi ricordo il ristoro essenziale delle paste alla crema. Ricordo che senza forze sarei morta. Mi salvò il corpo, che è sempre il più sapiente, e sa che cosa serve per sopravvivere. Questi messaggi nella bottiglia, le lettere d'amore sono come le barzellette dei matti. Si fa un giro e si torna all'ossessione di partenza. Non voglio buttarmi via per uno che non ha un soldo. Ti butterai via per uno che non ce l'ha. La amo e non so come dirglielo. Allora sta zitto. Mio marito è marchigiano e dice che le donne si tengono col cazzo e col cazzotto. All'inizio è bastato il primo elemento del binomio a tenerci uniti. Ma ormai sono poche le volte che mi dà soddisfazione come moglie. Però, in compenso, mi dà un sacco di cazzotti. Allora dov'è quel proverbio? Che forse funziona tutto intero. Ma solo col cazzotto, io credo che sto per diventare un po' malinconica. A me piacciono solo i baci. Il resto si fa perché si usa. La maggior parte non ci guadagna mai a tirarlo fuori veramente. 5 anni di tormenti, 2 minuti d'amore e 24 ore di odio. Basta così. Amanti, lasciatevi. L'amore è fatto per questo. Se si rimane insieme, oltre l'amore, scatta l'associazione delinquere. La Maria delle Acciughe, momentaneamente, precariamente, è residente al Faro. Adesso mi racconta una sua storia, vero Mary? Sì, voglio fare l'elogio del megalomane che ha senso di esserlo, però quello che ha delle grandi doti, un grande artista che sa di essere uno strafigo e quindi può permettersi di essere così, anche di trattarmi male. Ecco, fra i megalomani, i re dei megalomani sono i direttori d'orchestra, perché? E io sono specializzata in direttore d'orchestra da anni ormai, da una ventina d'anni. I direttori d'orchestra sono il massimo del megalomane perché hanno. Sono abituati a lavorare con, davanti a loro c'è tutta un'orchestra in buca a teatro, poi davanti hanno i cantanti, dietro hanno il pubblico e loro si trovano su un podio a muovere con le mani dell'aria, quindi cioè, è veramente il massimo e saltano fuori dei caratteri interessantissimi. La mia prima storia è iniziata 20 anni fa con un direttore e poi ho continuato. A un certo punto mi sono trovata, un giorno stavo camminando, dopo l'ultima delusione con l'ultimo direttore che era stata una storia tormentosissima, casta, però piena di colpi di scena. E quando le cose ormai fra noi andavano malissimo, una mattina camminando ho trovato per terra una bacchetta da direttore d'orchestra per la strada, a parte che già è strano che uno la riconosca perché una bacchetta da direttore d'orchestra non è che uno la vede tutti i giorni, e invece io zac, subito l'ho vista, era uno degli strumenti del mestiere dei miei amati, anzi lo strumento, e quindi appena ho visto questa bacchetta ho pensato, oddio, ma che stranezza, anche perché non ero vicino a un conservatorio, non ero vicino a un teatro. Allora ho raccolto la bacchetta e mi è bastata un'occhiata per guardare se era dritta, se andava bene, se era uno strumento che funzionava, perché me ne intendo moltissimo. E ho visto che la bacchetta era un po' storta, allora ho provato a drizzarla, nel drizzarla si è rotta, ho detto, ora vedi il destino, vuol dire proprio che è finita con i direttori d'orchestra, questo è il segno che mi ha mandato, il segno divino che mi ha mandato, la mia storia con l'artista megalomani, così sono finite. Quindi ho buttato la bacchetta e ho pensato, beh, è finita. E invece no, perché ho incontrato il quinto, che è il più figo di tutti comunque. Quinto l'ho incontrato a Santa Cecilia, dove hanno eseguito il terzo concerto di Rachmaninoff, che è quello del film Shine, ed è uno dei concerti più difficili mai scritti per pianoforte. E lì il quinto direttore della mia vita faceva il direttore d'orchestra, ha diretto l'orchestra. E lui si chiama Diego Mateus, è un giovane bellissimo venezuelano che arriva dall'orchestra Simon Bolivar, che è un'orchestra tutta di giovani, che nasce da una meravigliosa idea di un signore venezuelano che si chiama Abreu, che è candidato adesso al premio Nobel per la pace. Lui prende i bambini poveri dei villaggi in Venezuela, è un lavoro capillare che fa, e crea un sistema, infatti questa cosa qua si chiama proprio sistema, crea un sistema di scuole di musica e strappa i bambini piccoli dalla strada e al posto della pistola gli mette in mano o un violino o un clarinetto. E Abado ha scoperto questa cosa ed è stato lui a portarla alla ribalta internazionale. E così questo quinto direttore d'orchestra della mia vita è un grandissimo artista. E ho pensato che forse vede in me una piccola delinquente, come forse erano le sue amiche d'infanzia nelle favelas, chissà. Qui Capitaneria di Porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal Faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera. Расплата за ошибки, когда под ребра бьют, работа есть работа.